Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Il tema che vorremmo affrontare oggi, il numero verde serve per parlare con noi e con i nostri interlocutori, è grandioso a suo modo, anche se scivola nella cronaca, così come per tanti anni è scivolato nella storia, nella storiografia, nell'insegnamento nelle scuole. È il tema delle responsabilità italiane, e noi fino a prova contraria siamo italiani, apparteniamo a questa comunità civile, oltre che a questa Repubblica, condividiamo una storia comune. Le responsabilità italiane nel colonialismo, perché è successo un fatto che appunto non deve passare sotto silenzio. Il 30 d'agosto a Bengasi, il colonnello Gheddafi e il primo ministro italiano Silvio Berlusconi hanno stipulato un trattato che chiude una questione storica, quella appunto del riconoscimento da parte dell'Italia delle sue responsabilità coloniali in Libia, che durava da mezzo secolo. In Libia noi ci siamo stati dal 1911 fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi una trentina d'anni. Abbiamo fatto cose turpi e criminali, nel senso che il governo, la gestione militare dell'occupazione coloniale della Libia è stata contrassegnata da vere tragedie di cui noi siamo responsabili diretti. Negli anni 30 le avventure coloniali si sono estese, come sappiamo tutti, all'Etiopia, all'Eritrea, e anche lì insomma ci sono stati genocidi, stermini di massa. Insomma, la logica dell'occupazione coloniale è stata feroce, la nostra come quella degli altri paesi occidentali, degli altri paesi europei che hanno compiuto queste imprese. Eppure per tanti anni nelle nostre scuole si è parlato di un'opera di civilizzazione, e più in generale, al contrario di quello che hanno fatto i tedeschi, noi abbiamo sostanzialmente nascosto le nostre responsabilità. A chi? Prima di tutto a noi stessi. Noi avremo al microfono Angelo Del Boca, che è uno storico, e prima che uno storico è stato un romanziere, un giornalista, un uomo di valore, che ha fatto il contrario di quello che hanno fatto gli italiani in tutti questi anni. Invece di dimenticare, di occultare, di troncare, di sopire, Del Boca ha scoperto a mano attraverso un lavoro storico certosino, da grande storico e archivista, il dramma della presenza coloniale lì. Ma il punto fondamentale, diciamo la notizia da cui dobbiamo partire, è che tre giorni fa a Sirte, nel deserto, nella tenda, fuori dalla tenda, nella riunione del congresso del popolo libico, Berlusconi, a nome di tutti gli italiani, ha porto le sue scuse, ha offerto, anzi ha richiesto il perdono per i comportamenti di prevaricazione coloniale e per i crimini italiani in Libia. Eccolo qui che parla, poi avremo la borsa e poi cominciamo la nostra discussione. Berlusconi. Il passato che noi vogliamo con questo trattato mettere alle nostre spalle è un passato che oggi non consideriamo più come possibile. È un passato di cui sentiamo, noi figli dei figli, una colpa di cui chiedervi perdono. Ecco, la parola colpa, la parola perdono. È raro che uno statista le pronunci, queste due parole, è accaduto a Sirte. Vedremo in quale contesto, vedremo perché. Bene, abbiamo al microfono Angelo Del Boca, che saluto, buongiorno. Grazie, buongiorno, e grazie per le parole che ha detto. Ma si figuri. Del Boca, mi interesserebbe andare, diciamo, come si dice, con i piedi di piombo, per dare alle parole il loro vero significato e per cercare di trasmettere cose certe, non chiacchiera, perché molto spesso si parla di questioni che possono essere tutto sommato sbrigate come faccende di informazione quotidiana, ma qui invece abbiamo assistito almeno a un passaggio che davvero merita il titolo di storico, perché è vero che l'Italia è un paese informale, è vero che noi non abbiamo certi caratteri che sono tipici di altri grandi stati nazione in Europa, però insomma siamo un paese, siamo una repubblica, e se abbiamo deciso di chiedere perdono, di riconoscere una colpa, e abbiamo fatto tutto questo ratificando un trattato, impegnando risorse italiane, 5 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni, per risarcire le vittime della nostra colpa, se abbiamo deciso di fare tutto questo, un significato anche di cultura, di civiltà, una cosa che dovrebbe entrare nella storia di questo paese, nella sua memoria, ci sarà. Allora, la cosa importante che mi ha veramente stupito è questa. La cerimonia c'è stata, il trattato fu ratificato, dal 30 agosto ad oggi si è chiuso, diciamo, il cerchio di questa richiesta di perdono ai libici e formalizzazione politica di questa richiesta di perdono, ma lei, che è il principale, se non l'unico, vero grande testimone storico dei guasti del colonialismo italiano in Libia, oltre che in Etiopia e in Eritrea, non ha applaudito, non ha ritenuto che questo passaggio sia stato governato come sarebbe stato giusto. E quindi vorrei capire bene la sua opinione. Perché lei è deluso da questa sanzione della colpa nazionale italiana nel colonialismo in Libia? Ma guardi, io le spiego subito. Che Berlusconi abbia chiesto perdono e riconosciuto le colpe, questo è un dato di fatto, non poteva fare diversamente, perché Gheddafi si aspettava questo. Io ricordo che in un'intervista che mi ha dato lui diceva: più che le questioni materiali a me importa che l'Italia, cioè lo Stato italiano, riconosca le colpe. Ecco, quindi diciamo... Queste parole di Berlusconi non mi hanno sorpreso. Quello che invece mi ha sorpreso è l'analisi che ho fatto capitolo per capitolo del trattato. Sì. Il trattato, se lei lo guarda bene, specialmente nella prima e la seconda parte, fa un passo indietro rispetto al comunicato che è stato già fatto nel 98 con Dini. Le parole in quel comunicato sono molto molto più avanzate del trattato del 30 agosto. Ecco, questo che mi ha sorpreso che tutto sommato qui, in questo momento, come dice giustamente lei, storico, forse si poteva fare un trattato con maggiore chiarezza, cioè senza usare sempre quegli aspetti così un po' vaghi. Io ricordo che quando è stato fatto il primo trattato con la Libia di Re Idris, addirittura per nascondere quello che erano state le nostre responsabilità, si disse che quei soldi che gli davamo, ed era una cifra abbastanza sostanziosa anche allora, le davamo per la costruzione del paese e non si faceva assolutamente riferimento alle colpe coloniali. Ecco, è questo che mi ha molto deluso, ecco, perché in questo momento... Sì, ho capito, e adesso ecco. Poi specificheremo bene analizzando anche il trattato, i suoi punti. Abbiamo al microfono da Bruxelles, lo ringrazio per questo, anche Jasch Gavronsky, che è un testimone diretto di una... Esatto, di quello che ha visto nei campi di... Sì, che sì. Di appunto, che è uno dei particolari crudi, insomma, abbastanza drammatici. Bene, però quello che vorrei dirle è questo. Sì, naturalmente si può sempre fare di meglio, ma la cosa curiosa, interessante, eccetera, è che cito da un articolo di Maurizio Matteuzzi sul Manifesto di martedì 3 marzo. Peccato che a celebrare un evento che, al di là della retorica, scrive Matteuzzi, è effettivamente storico, sia stato uno come Berlusconi. E vabbè, il Manifesto è un giornale avverso a Berlusconi e si lamenta del fatto che sia toccato a un premier come Berlusconi, che non è precisamente, come dire, un medaglione di statista protocollarmente a posto, celebrare questo fatto storico con scambio di doni. Gheddafi ha regalato a Berlusconi un paio di cammelli simbolici, si sono stati fotografati anche vicino a questi cammelli, camiceria e capi arabi, e anche Berlusconi gli ha fatto i regali. Insomma, voglio dire, tutto normale sarebbe successo con qualunque altro capo di Stato, ma nel caso di Berlusconi tutto diventa sempre più spettacolare per chi gli vuole bene e per chi non gli vuole bene in senso amabile o in senso addirittura a volte disgustoso e truce. Però Matteuzzi poi dice: è toccato tuttavia Berlusconi mettere forse la parola fine a questa storiaccia, e gliene va dato atto. Avrebbe dovuto essere un governo di centrosinistra e più democratico a farlo, ma così non è stato. Ecco, vorrei capire questo punto. Come mai solo con Berlusconi si è arrivati a chiedere perdono alla Libia per il nostro passato coloniale? Eppure Berlusconi, come lei ricorda, non è araldo, diciamo, di valori democratico-repubblicani e resistenziali. È un democratico, lo ha dimostrato accettando la vittoria, la sconfitta, governando il paese. Insomma, direi che è legittimato a fare il mestiere che fa dal consenso degli italiani. Però al di là di questo, certo, Berlusconi è uno che è stato molto irriguardoso verso la data del 25 aprile, il giorno della liberazione, ha fatto delle interviste così, insomma, innaffiate a rosé da un buon champagne in Sardegna con dei giornalisti inglesi, nelle quali ha detto che in fondo il confine non era male, si andava al mare. Appunto, no, però è stato Berlusconi a fare questo. Come mai? Perché la politica riserva sempre delle straordinarie sorprese. Uno pensa lo farà Prodi, uno pensa lo farà D'Alema, è diventato Presidente del Consiglio, è stato Ministro degli Esteri, uno pensa lo farà il centrosinistra che per 5 anni ha governato l'Italia, e invece alla fine questa cosa così solenne, la richiesta di perdono per un passato coloniale, la fa un governo e un Presidente del Consiglio che non sembrerebbe quello giusto, secondo l'opinione per esempio del Manifesto. Volevo chiedere anche a lei questa cosa importante. Ma a me sembra molto semplice, la preparazione c'era stata ed era stata fatta da governi di sinistra, da Prodi, da Lema, da Dini, e quindi poi è andato un momento, ci voleva del tempo, e il tempo è arrivato con Berlusconi e il Presidente. Insomma, in questo non trovo, diciamo, cioè non è che ci sia stata una spinta particolare fatta dal governo di Berlusconi, ecco. Quindi direi che è un fatto puramente accidentale, ecco, non vedo nessuna regia particolare. No, perché uno direbbe, siccome l'accordo ha un contenuto economico, cioè le imprese italiane sono di nuovo riammesse in Libia, l'ENI in particolare ha di nuovo accesso alle risorse energetiche, petrolifere, del gas libico, naturalmente pagando un addizionale del 4% che va nel monte, diciamo, dei risarcimenti sulle estrazioni libiche. Siccome c'è un aspetto che si può giudicare, diciamo, mercantilistico, un do ut des, non vorrei che lo spirito pragmatico, diciamo, e di scambio anche commerciale di un uomo come Berlusconi abbia poi portato, come spesso succede in politica, a un risultato che va salutato come un grande risultato poi invece culturale, istituzionale. Ma io non credo che la parte, chiamiamola così, commerciale abbia prevalso. Credo che un accordo del genere lo faceva anche un uomo di sinistra, quindi non vedo nessuna diciamo sfasatura. Diciamo che questo accordo conveniva a tutte e due le parti. A Gheddafi, perché davanti al suo popolo, che ricordava purtroppo anche con una giornata del dolore, giornata della vendetta addirittura, gli anni della nostra presenza, e interessava soprattutto a Berlusconi, perché è innegabile che sul piano della politica estera ha fatto un passo avanti, un passo notevole. Sì, tra l'altro hanno stabilito proprio il 30 agosto come giornata della memoria di questo brutto nostro passato coloniale in Libia. E Berlusconi ha detto: verrò in Libia a celebrare il primo anniversario di questo trattato che è stato poi ratificato. Mi scusi, per entrare subito nel merito di uno dei punti duri, bisogna informare, diciamo, gli ascoltatori che non fossero del tutto a conoscenza, anche perché sui giornali c'è stata un'informazione frettolosa, sbrigativa. Molto, molto frettolosa. È vero, ecco. Allora, bisogna spiegare alcune cose. In questo trattato sono coinvolte molte cose. Allora, noi costruiremo abitazioni, daremo borse di studio, cercheremo di dare tutte le mappe per lo sminamento del territorio, pensate che ancora ci sono problemi di quel genere. Faremo, diciamo, una serie di atti tutti molto importanti, i più importanti dei quali sono quelli con una cospicua valenza economica. Cosa faremo ancora? Faremo, per esempio, sulla questione della immigrazione. Questa deve essere stata l'altra grande spinta in un governo, certamente, a partecipazione leghista, eccetera. per il controllo dell'immigrazione clandestina che passa attraverso la Libia, i famosi sbarchi di Lampedusa, e di poche ore fa la notizia di un altro maxi sbarco proprio a Lampedusa. Noi dovremmo abbiamo stipulato con la Libia un controllo misto, una flottiglia mista italo-libica per impedire la partenza da lì degli immigrati clandestini, per contrastare l'azione di coloro che, mettendo poi spesso anche a repentaglio la vita di questa gente, gli offre il sogno dello sbarco clandestino sulle coste italiane. Però c'è un punto, e su questo volevo sentire appunto anche Gavronsky. Dice il nostro Del Boca in un'intervista a Repubblica, che le critiche di Amnesty International al trattato, che sono critiche molto dure, lui le condivide, perché i centri di detenzione provvisoria, i CPT in territorio libico, per coloro che si candidano ad essere migranti, sono in realtà dei campi di concentramento. Del Boca ha scritto un ultimo libro, edito da Neri Pozza, Il mio Novecento, nel quale ha riportato diverse testimonianze di chi ha visitato questi campi, e tra questi Jacek Gavronsky, deputato europeo del Popolo delle Libertà, che ci parla da Bruxelles e ci racconterà, spero, la sua testimonianza. Cosa sono questi centri o campi di concentramento che lui stesso ha definito inumani in Libia? Beh, prima di tutto devo premettere che quello che ho visto io ne ho visto uno di questi campi, ed era un campo un po' particolare nel suo orrore, nel senso che era un campo all'interno di Tripoli, alla periferia di Tripoli, ma addirittura in una zona anche bella, residenziale di Tripoli, e quindi certamente diverso da tutti gli altri campi che ci sono in Libia. E inoltre la nostra visita, io ero con una delegazione del Parlamento Europeo, eravamo 3 o 4, era stata preannunciata, quindi il campo era stato preparato a questa visita. Ma malgrado tutto, quello che abbiamo visto è abbastanza stravolgente, nel senso che allora era ancora maggio, quindi non faceva tanto caldo, ma già era caldo, già eravamo dentro questo cortile, tutto attorno c'erano queste celle enormi, delle grandi camerate sbarrate con delle finestre, con le sbarre, con delle porte, e io credo che questi detenuti, chiamiamoli, avevano capito che stava per arrivare qualcuno dell'estero, perché certamente le guardie avranno preparato, avranno ripulito, avranno rimesso in ordine e tutto quanto, e quindi si aspettavano, e hanno inscenato una dimostrazione terrificante, nel senso che di urla, di spinta, soprattutto a me la cosa che più mi ha impressionato è questa spinta con una specie di ariete, si sentivano dei colpi contro questa porta di ferro che dava l'impressione sempre di cedere, e mi immaginavo cosa sarebbe successo se questa porta avesse ceduto e tutti questi se fossero riversati nel cortile. Mi ha fatto anche pensare a come le guardie libiche, cosa fanno, come fanno a entrare dentro queste camerate, se c'è tanta rabbia, tanto odio e tanta voglia di... Sì, probabilmente era anche una manifestazione, come spesso purtroppo succede nei carceri, di autolesionismo, no? Una forma sì, di... credo anche un po' preparata, anche un po' voluta, certo, anche certo. Un po' organizzata, però ci ho detto impressionante. Certamente le condizioni lì dentro, che pur, ripeto, era un campo particolare, privilegiato e tutto, erano abbastanza... Quindi è discutibile, controverso, se non addirittura del tutto fuori luogo, l'idea che noi si collabori a quel tipo di... Voi adesso parlavate giustamente di controlli alla partenza dalla Libia, ma lì il problema allora, e lo è certamente ancora adesso, è il controllo all'entrata della Libia, certo. perché è difficilissimo. Adesso ne parliamo più partitamente, grazie Gavronsky. 800 24 00 24, ancora e formalmente accuso il nostro passato di prevaricazione sul vostro popolo e vi chiedo perdono. È Berlusconi che parla nella storica cerimonia a Sirte con cui è stato ratificato il trattato italo-libico che chiude con il nostro passato coloniale. Virgolette di nuovo, il passato che con questo trattato vogliamo mettere alle spalle è un passato di cui noi, figli dei figli, sentiamo una colpa di cui chiedervi perdono. Nessun popolo ha aggiunto il Premier, può avere il diritto di sottomettere e governare un altro popolo sottraendogli la propria cultura e le proprie tradizioni. Antonia da Roma. Antonia. Buongiorno. Due rapidissime osservazioni. La Prego. Prima, speriamo che questo trattato sia l'ultimo che metta veramente fine alle richieste di perdono da parte nostra e anche da parte libica, sperando che non ci siano altre richieste di risarcimento. Primo. Secondo, certamente ai primi del Novecento noi abbiamo fatto delle cose terribili, noi, insomma, i nostri antenati, non i miei personali, ma insomma gli italiani hanno fatto cose terribili e cattive, veramente delle nefandezze, delle crudeltà su questo popolo. Però allora la parola democrazia, rispetto dei diritti umani, veniva inteso come adesso, non ancora con una mentalità ottocentesca per cui non ci si sentiva tanto in colpa, e non darebbe questo l'avvio ad una revisione di tutta l'umanità sui delitti e su quello che è stato fatto? Grazie. Sì, auguri, grazie a lei. Grazie a lei, Antonio, auguri anche a lei. Del Boca, lei è la persona giusta per rispondere a questa istanza, diciamo, di Antonia. Lei dice all'inizio di questo del secolo breve, all'inizio del Novecento, secolo breve è la definizione che ne ha dato lo storico Eric Hobsbawm, all'inizio di questo secolo, nell'epoca del colonialismo dispiegato, l'idea umanitaria di difesa e tutela dei diritti umani non era così popolare come teoricamente oggi. Anche oggi, diciamo, ci sono atti di ferocia che si compiono nel mondo, perché l'uso della forza è sempre un atto brutale. Però lei dice era un'altra la nozione che i nostri antenati, i nostri nonni avevano allora di come si doveva comportare un paese. Magari qualcuno credeva davvero che fosse una battaglia di civilizzazione e relativizzava il valore delle vite umane che venivano soppresse nella guerra coloniale, e relativizzava anche l'idea che c'era un popolo autoctono, indipendente, c'era della gente che aveva dei diritti sulla propria terra. Lei, che è uno storico e che ha appunto raccontato meglio di chiunque altro per molto tempo in solitario i crimini italiani in Libia, in Etiopia, in Eritrea, che ci dice di questa sensibilità che ha? Ma certo, la situazione era un po' diversa, però non tanto diversa, perché cito un solo episodio. Dopo Sharashat, cioè dopo quel combattimento sfortunato in cui furono uccisi 500 italiani, vicino proprio nella stessa oasi di Tripoli, ebbene, come è noto, Giolitti ordinò l'immediato imbarco di alcune migliaia di persone che poi diventarono i deportati nelle varie isole, e poi la soppressione di altrettanti. Insomma, diciamo che fra uccisi, impiccati e deportati andiamo sugli 8-9 mila persone. Ebbene, davanti a questa situazione moltissimi, dico quasi tutti i corrispondenti dei giornali stranieri, giornali esteri, si sono presentati al generale Caneva, hanno riconsegnato il tesserino da giornalista e si sono imbarcati. Quindi diciamo che le operazioni, quando erano fatte in quella misura, toccavano alla sensibilità anche allora. Cioè era una protesta, insomma, la riconsegna del tesserino. Una protesta che poi naturalmente fece il giro del mondo, perché il fatto che il Time, tutti i giornali più importanti lasciavano la Libia davanti a una situazione del genere, voleva dire che tutto sommato quello che era stato l'ordine di Giolitti e l'esecuzione immediata del generale Caneva, insomma, avevano talmente toccato, talmente scioccato, da costringere ad andarsene via, cioè rinunciare al loro lavoro di testimone, che è una cosa gravissima, lo sappiamo noi giornalisti. Ci ha raggiunto Luciano Lanna, che è direttore responsabile del Secolo d'Italia e che è stato uno storico, Fascisti immaginari, tutto quello che c'è da sapere sulla destra, è un suo volume con Filippo Rossi per la Vallecchi, edito alcuni anni fa e che ebbe un certo successo. Lanna, buongiorno. Da un punto di vista diciamo della destra culturale che lei rappresenta, questo fatto che il governo di Berlusconi, il governo in cui c'è dentro anche Alleanza Nazionale, che insomma è l'erede, sia pure l'erede critica della storia del movimento sociale italiano e quindi in qualche modo ha un collegamento storico nel profondo con le vicende del ventennio mussoliniano, ecco, dal suo punto di vista, abbiamo fatto bene, è stato un grande giorno quello in cui abbiamo deciso finalmente di dire pubblicamente, in modo esplicito, davanti al Parlamento libico, con le parole impegnative di un Presidente del Consiglio, che il nostro passato coloniale per certi aspetti ci ripugna? Certo, io credo di sì. Credo di sì. L'esempio, come dire, quello di De Gaulle. Cioè, in fondo il colonialismo italiano non è stato niente rispetto al colonialista francese, certo, o a quello inglese. E chi avrebbe pensato negli anni 50 che la questione algerina la risolvesse il generale De Gaulle, no? Tutti sappiamo quando era finita la storia lì. Io credo che poi proprio una capacità di una certa cultura radicata nella storia sappia poi fare queste cose, decidere queste cose, che poi sono importanti, insomma, no? Perché riguardano appunto fare i conti con quella che è stata la storia dell'Ottocento e del Novecento europeo. Il colonialismo non è stato soltanto un fatto italiano, ma un fatto europeo, questo secondo me è importante. E era necessario farlo anche perché, tutto sommato, io credo che l'Italia ha svolto lì un ruolo, al di là degli aspetti brutti che ci sono, di cui avrete sicuramente parlato col professor Del Boca, eccetera, ma c'è stato anche un aspetto, sono stato qualche anno fa in Libia, al di là poi dei furori ideologici, e poi la gente lì usa ancora il nome Via Torino, oppure non so, Bengasi assomiglia molto a Sabaudia, cioè questo è un fatto che c'è stato e andava risolto. Oggi il colonialismo non ha ragione di essere, ma non da oggi, da 40 anni, da 50 anni, e quindi andava ritrovata una forma di politica diversa, e Berlusconi in questo è stato bravo anche nel dire. L'altro giorno, quando ha detto la politica degli americani o con Bush o con Obama è la stessa, la politica italiana io credo che sia sempre la stessa, che è una politica mediterranea, e Berlusconi in questo è molto bravo nel dimostrare una continuità, una certa politica che secondo me da Balbo e da Crispi sino a Bettino Craxi, Andreotti. Beh, però quella. Qui c'è una rottura invece di continuità, perché insomma Balbo e gli altri hanno colonizzato, Berlusconi sì, dice che è stata un'infamia. Però anche lì va vista la questione, perché poi se uno va a leggersi la storia, al di là della guerra, i Graziani e certe situazioni, eccetera, la vicenda di Omar al-Mukhtar, Italo Balbo però poi addirittura chiese, e gli storici lo sanno, la cittadinanza italiana per i libici, o comunque volle costruire le moschee costruite dal governo italiano, comunque voglio dire, pur in quella fase c'era comunque una forma di... Lei dice insomma che va vista in modo diciamo non manicheo tutta la faccenda. Assolutamente che no, secondo me la non storia è facile. La storia ha le sue lacerazioni, c'ha anche i suoi superamenti. Luigi da Roma, Luigi. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Lei fa un'obiezione ancora diversa. Due cose. Prego. Io mi volevo fare un inciso per la discussione di ieri, in cui lei praticamente non ha ricordato che mentre Bush ha chiesto perdono agli americani per tutti i morti che ci sono stati in Iraq, no, non ha chiesto perdono a nessuno. Questo Bush, per quanto riguarda l'Italia, Bush non ha chiesto perdono a nessuno, lei è malinformato. Quello che riguarda questo accordo, quello che riguarda questo accordo, sì, è che questo accordo non va fatto con un dittatore crudele come Gheddafi. Gheddafi ha ucciso centinaia e migliaia di oppositori. Ora, fare un contratto con quel signore, secondo me, non abbiamo fatto bella figura. È vero che il come è stato preparato è proprio alla Berlusconi, però potevamo aspettare un momento diverso, sì, per chiudere questa vicenda che ormai va avanti da... Comunque, per essere precisi, sì, Luigi, la possibilità di fare questo accordo con Gheddafi deriva proprio dalla vittoria in Iraq dell'Occidente, degli americani, perché Gheddafi era quello che abbatteva gli aeroplani, no? Il famoso aereo della Panam, finanziando e promuovendo il terrorismo, era quello che aveva un programma di irrobustimento di un grande arsenale di armi di distruzione di massa. quando 150.000 valorosi soldati americani sono arrivati nel deserto iracheno e lo hanno liberato e hanno imposto una costituzione e le elezioni, Gheddafi ha capito che qualcosa era cambiato in Medio Oriente e si è consegnato, diciamo, mani e piedi all'Occidente, tirando fuori tutti i piani di armamento, eccetera, rinunciando ed essendo reinserito, almeno parzialmente, nel circuito della comunità internazionale, il che ci ha reso possibile anche stipulare questo trattato e fare questa cosa che in tutto sommato onora la nostra storia, sebbene ci siano molte... Ecco, Gabronsky... Questa obiezione però di Luigi, che dice ma noi il trattato l'abbiamo fatto con il dittatore crudele, lei che opinione si è fatto della Libia di Gheddafi nelle sue visite? È ancora un paese caserma? Ma Gabronsky è ancora al telefono o no? Va bene. Allora, la domanda la rivolgo a Del Boca. Sì. Allora... Ma guardi... Io conosco molto bene la Libia per esserci state una ventina di volte e conosco anche il personaggio. Sì. Cioè Gheddafi indubbiamente ha avuto un periodo, chiamiamolo pure criminale, perché lanciava le sue squadre ad abbattere anche in Europa, anche a Roma, i suoi oppositori. Questo non va dimenticato. Il personaggio è estremamente variegato. È un personaggio di estrema intelligenza. Io nell'ultima intervista, che è durata più di 2 ore, devo dire che mi sono trovato davanti a un uomo e credo di aver visto nella mia vita di giornalista e di storico centinaia di personaggi di alto livello, ma devo dire che l'uomo era straordinario. Straordinario al punto che è anche un grande narratore. Il suo libro pubblicato a Cairo ha venduto in una settimana 100.000 copie. Ora voglio dire, il personaggio è da prendersi così com'è. È un personaggio che ha una sfaccettatura enorme e quindi ha avuto dei momenti, diciamo, di assoluta pazzia, dei momenti di megalomania, questo secondo me continua ancora, perché l'altro giorno, quando è stato nominato presidente della Unione Africana, che è una sua invenzione, dobbiamo riconoscerlo, ebbene ha voluto che fosse ratificato questo titolo con un titolo diverso di re dei re, che come tutti sanno lo aveva soltanto il Negus, cioè certo. L'imperatore dei fiori. Negus Negesti, sì. Vabbè, certo, Gheddafi va preso così com'è, sì, anche Berlusconi va preso così com'è, tutti vanno presi così come sono gli statisti. Mi fa piacere che riusciamo a condurre questa chiacchierata su questo tema incandescente e storicamente così importante e moralmente così importante con un tono di grande civiltà. È tornato nel frattempo l'indisciplinato amico Iash Gabronsky al microfono. Io vi sentivo e voi che non vi sentivate. Gabronsky al microfono da Bruxelles. Prego Gabronsky, stava dicendo... Se potevo sì. A proposito di Berlusconi, quello che dicevate prima, io credo che lui ha un po' la specialità di sdoganare i cattivi, fra virgolette. No, ma se uno pensa alla sua politica, adesso non voglio andare fuori tema, ma la sua politica... Fini era un cattivo, no? Quando Berlusconi disse votare Fini senza esitazione. Stavo pensando a Putin, Nero. Allo scandalo, a Putin, allo sì. Scandalo e alle critiche che in parte giustamente anche si è attirato per come tratta Putin. Credo che Berlusconi abbia un po' il senso del potere, il gusto del potere, il piacere del potere. Gli piace la gente che può. E in Gheddafi ha trovato una persona di questo genere. Io prima di tutto ringrazio il professor Del Boca per aver ritrovato e ricordato questo mio articolo che scrissi allora visitando quel campo di concentramento, ma credo che lui ha ragione quando dice che nei trattati, in quel trattato non c'è tanto accenno a questo perdono di Berlusconi, però io oggi nella vostra trasmissione, nella sua trasmissione a Ferrara, per la prima volta ho sentito, avevo letto la dichiarazione, ma sentirla dalla voce viva di un Presidente del Consiglio italiano che chiede perdono, ecco, io credo che sia abbastanza e direi anche molto importante. In fondo poi ci sono certamente molto più persone che ascoltano questa dichiarazione di quante poi leggeranno i trattati, anche se logicamente i trattati fanno la storia e non le dichiarazioni. Vero, è abbastanza impressionante. Isa da Padova pone un nuovo problema importante. Isa. Sì, buongiorno a lei e a Radio 24. Io sono un cittadino albanese, no, che vivo... Sì, lo vedo perché il nome in italiano è femminile, invece lei è un maschio. Vabbè, sono maschio, vabbè. Sì, no, allora, no, siccome c'era scritto Isa, pensavo fosse una donna, sono rimasto sì, colpito. Non è il primo. Comunque, problema. Allora, essendo un cittadino albanese e essendo che l'Italia ha molti interessi in Albania, no? Sì. Essendo anche che l'Italia ha occupato per molto tempo l'Albania, l'ha sfruttata, certo. Visto che sono spalancate queste porte del perdono, si possono spalancare anche per noi altri, insomma. O perché io personalmente, cioè i miei antenati hanno perso molto dal fascismo in Albania. Certo. Lei solleva un problema molto serio, che è stato sollevato in altra forma naturalmente, non come richiesta di risarcimento e come pena personale in questo caso di un cittadino albanese di fronte al passato coloniale italiano in Albania, ma come problema storico, diciamo, per tutto l'Occidente. Lo ha sollevato Pascal Bruckner, forse lei del Boca conosce quel pamphlet, un intellettuale francese che ha detto: noi non possiamo vivere in una logica penitenziale. Il politicamente corretto vuole che noi diciamo che il nostro passato è tutto un passato di infamie, è tutto un passato di violenze, di feroce, ai danni dei più deboli, del terzo mondo, colonizzato, occupato militarmente, maltrattato, brutalizzato. E dice Bruckner, però questo è parte di una sindrome culturale, diciamo, di autonegazione della nostra identità storica. Non riusciamo a vedere tutto il contesto di allora, il bene e il male che erano profondamente intrecciati, e quindi alla fine, come dire, perdiamo consistenza, perdiamo solidità e identità nel nostro rapporto con noi stessi e con gli altri. Lei questa obiezione, nel momento in cui ha fatto tutto un grande lavoro storico di denuncia della parte cattiva dell'identità italiana nel fenomeno coloniale, centri di detenzione in Libia, dove certamente i diritti umani vengono violati, ma allora uno si può porre la domanda se quella gente lì è più abituata a vedere i propri diritti umani violati e quindi ne risente, ne soffre di meno. È un ragionamento che può portare però a delle conclusioni abbastanza pericolose. Sì, di relativismo totale, cioè chi è disperato ha il dovere di rimanere disperato. No, ma anche sulla propria, insomma, sì. Gente che ha attraversato, perché per arrivare lì a Tripoli, loro hanno attraversato il deserto in condizioni forse ancora più spaventose di quelle in cui si ritrovano, anzi non forse, certamente più spaventose di quelle in cui si ritrovano in quei campi. Certo. Allora, si può anche dire che quei campi sono una liberazione rispetto a quello che loro hanno sofferto prima e magari anche a quello che soffrivano nel proprio paese di origine. Bene. Del Boca è di nuovo in linea? Sì, sono in linea. Ah, ha sentito la domanda che avevo fatto prima o era saltata la linea? Quella su Pascal Bruckner, quella sulla penitenza, lo spirito penitenziale dell'Occidente che Bruckner respinge. Dice: non abbiamo fatto solo atrocità e cose feroci nella nostra storia coloniale. Ma io però sono sempre dell'opinione che tutto deve essere meditato, rimeditato. E anzi, io approfitto del fatto che lei ha una tribuna così importante per chiederle di approfittare di questo trattato per fare qualche cosa anche di benefico anche per l'Italia. Cioè, riprendiamo a discutere del nostro passato coloniale e discutiamolo ampiamente. Io mi ricordo che qualche anno fa, quando finì la querela che mi divideva da Montanelli, che sosteneva che non erano mai stati usati gas e io dicevo di sì, poi il generale Corcione, ministro della difesa, ha chiuso la vertenza dicendo ha ragione del Boc. Ebbene, io ricordo che allora speravo che con un avvenimento del genere, con un personaggio così importante come Montanelli, che doveva chiedere perdono a sua volta per aver raccontato tante storie, lo fece. Ebbene, io speravo. Lo fece? Come? Lo fece. Sì, no, lo fece nei miei confronti e nei confronti anche dei suoi lettori con un articolo sul Corriere della Sera. Beh, era un gentiluomo. No, era una persona molto onesta, anche se per anni mi aveva così, diciamo, incolpato di raccontare storie, di dare importanza ai documenti, mentre lui aveva visto, in realtà aveva visto nulla, perché lui era già ospedalizzato da Asmara. Ma a parte questo, io speravo in quell'occasione che si facesse veramente quel dibattito. Non si è fatto. Non c'è mai stato. Va bene, ecco, speriamo che si riesca ad aprirlo partendo da questo fatto a suo modo grandioso, comunque quale che sia stata la ricezione, cioè la richiesta di perdono, ufficialmente, formalmente, sonoramente avanzata da un presidente del Consiglio italiano in pieno deserto libico 3 giorni fa. Grazie professor Del Boca, grazie a Jasch Gavronsky, grazie a Luciano Lanna, grazie a tutti voi e come al solito grazie a Franca Fossati e Gloria Guerrera che sono in redazione, Alessandro Chiappini e a Giorgio Mattei che sono in regia, linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. A domani, grazie.